21. Minestra di passatelli di carne. Filetto di manzo grammi 150, pan grattato grammi 50, parmigiano grattato grammi 30, midollo di bue grammi 15, burro grammi 15, rossi d'uovo numero 2, sale quanto basta, odore di noce moscata. Il filetto pestatelo nel mortaio e passatelo dall'ostaccio. Il midollo e il burro schiacciateli insieme con la lama di un coltello e uniteli alla carne. Aggiungete il resto per fare un pastone che riescirà sodo da poterci premere sopra il ferro come ai passatelli del numero precedente. Fateli bollire nel brodo per 10 minuti e serviteli per 6 persone. Anche un petto di pollo o un pezzo di petto di tacchino, lessate o crudi, possono servire a quest'uso invece del filetto. 22. Minestra a base di ricotta. Prendete il composto dei cappelletti numero 7, ma invece di chiuderlo nella sfoglia, gettatelo a cucchiaini nel brodo quando bolle. E appena assodato, versatelo nella zuppiera e servitelo.